Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Herman si stava preparando di nuovo a uno dei suoi viaggi. Aveva inventato un'ennesima bugia dicendo a Jadwiga che doveva partire per vendere l'Enciclopedia Britannica e raccontandole che sarebbe stato costretto a trascorrere un'intera settimana nel Middle West. Dato che Jadwiga difficilmente distingueva un libro dall'altro, la menzogna era superflua, ma Herman aveva preso l'abitudine di raccontare storie. Inoltre, le menzogne si logoravano, dovevano essere rabberciate di continuo, e di recente Jadwiga si era lamentata di lui. Herman l'aveva lasciata sola il primo giorno di Rosh Hashanah e per una buona metà del secondo. Lei si era data la pena di preparare la testa di carpa, la mela, il miele e aveva cotto al forno la speciale challah di Capodanno, esattamente come le aveva insegnato una sua vicina. Ma a quanto pareva Herman vedeva lì anche durante le festività di Rosh Hashanah. Le donne del caseggiato cercavano ora di persuadere Jadwiga, parlando per metà in Yiddish e per metà in polacco, del fatto che suo marito doveva avere un amante in qualche posto. Una vecchia le aveva consigliato di rivolgersi a un avvocato, di ottenere il divorzio da Herman e di pretendere gli alimenti. Un'altra si era recata con lei alla sinagoga per farle ascoltare il suono del corno d'ariete. Rimasta in piedi tra le mogli, Jadwiga, al primo suono lamentoso del corno, era scoppiata in lacrime. Le ricordava Lipsk, la guerra, la morte di suo padre. Ora, dopo essere rimasto soltanto pochi giorni con lei, Herman partiva di nuovo, per andare non da Masha, ma da Tamara, che aveva preso in affitto un villino sui monti Catskill. Era stato costretto a mentire anche a Masha, le aveva detto che si recava con Rabbi Lampert ad Atlantic City per assistere a un congresso rabbinico di 2 giorni. Si trattava di un pretesto zoppicante, persino i rabbini riformati non si riunivano nei giorni del timore. Masha però, che era riuscita a farsi concedere il divorzio da Leon Torschiner e che si aspettava di sposare Herman una volta trascorso il periodo d'attesa di 90 giorni, aveva smesso di fargli scenate di gelosia. Il divorzio e la gravidanza sembravano aver trasformato. Si comportava nei confronti di Herman come una moglie e si mostrava devota come non mai con sua madre. Aveva scovato un rabbino, un profugo, disposto a celebrare la cerimonia nuziale senza licenza. Quando Herman le disse che sarebbe tornato da Atlantic City prima di Yom Kippur, Masha non gli fece domande. Lui le disse anche che il rabbino gli avrebbe versato un compenso di $50 e avevano bisogno di quel denaro. L'intera avventura era carica di pericoli. Herman aveva promesso di telefonare a Masha e sapeva che la centralinista delle interurbane avrebbe potuto dirle da dove veniva la telefonata. Poteva darsi inoltre che Masha decidesse di telefonare all'ufficio di Rabbi Lampert e venisse a sapere che il rabbino si trovava a New York. Ma siccome Masha non aveva telefonato nemmeno a Reb Abraham Nissen Yaroslaver per accertare se Herman le aveva detto la verità, probabilmente non si sarebbe rivolta neppure a Rabbi Lampert. Un ulteriore pericolo non peggiorava molto la situazione. Herman aveva 2 mogli e stava per sposarsi una terza volta. Anche se temeva le conseguenze delle sue azioni e lo scandalo che ne sarebbe conseguito, qualcosa in lui si godeva il brivido di essere continuamente minacciato dalla catastrofe, progettava le proprie azioni e nello stesso tempo improvvisava. L'inconscio, come lo chiamava von Hartmann, non sbagliava mai. Le parole di Herman sembravano scaturire dalla sua bocca di loro iniziativa e soltanto in seguito si rendeva conto degli stratagemmi e dei sotterfugi che era riuscito a inventare. Dietro quel pazzesco miscuglio di emozioni, un giocatore d'azzardo calcolatore prosperava grazie al rischio quotidiano. Herman avrebbe potuto liberarsi facilmente di Tamara. Lei aveva detto più volte che, se fosse stato necessario il divorzio, glielo avrebbe concesso. Ma quel divorzio non gli sarebbe potuto essere di gran giovamento. Esisteva, probabilmente, ben poca differenza, agli occhi della legge, tra un bigamo e un poligamo. Inoltre, un divorzio sarebbe costato denaro ed egli avrebbe dovuto esibire i documenti. ma c'era anche qualcosa d'altro. Herman vedeva nel ritorno di Tamara un simbolo delle sue credenze fisiche. Ogni volta che si trovava con lei, sperimentava di nuovo il miracolo della resurrezione. A volte, quando lei gli parlava, provava la sensazione di trovarsi a una seduta nel corso della quale lo spirito di lei si fosse materializzato. Si era addirittura trastullato con il pensiero che Tamara non appartenesse in realtà al mondo dei vivi, ma che fosse stato soltanto il suo fantasma ad aver fatto ritorno da lui. Herman si era interessato all'occultismo ancor prima della guerra. Lì, a New York, quando riusciva a trovarne il tempo, si recava alla biblioteca pubblica della 42esima strada e consultava i volumi sulla lettura del pensiero, sulla chiaroveggenza, sui D-book e sugli spiriti, su tutto ciò che concerne la parapsicologia. Dato che la religione ufficiale valeva quanto una bancarotta e la filosofia aveva perduto ogni significato, l'occultismo costituiva uno studio valido per coloro che ancora cercavano la verità, ma le anime esistevano a vari livelli. Tamara si comportava, o almeno in apparenza, come una persona viva. L'organizzazione dei profughi le passava un assegno mensile e inoltre era aiutata anche da suo zio, Reb Abraham Nissen Jaroslaver. Aveva preso in affitto un villino in un albergo ebraico a Mountaindale. Non voleva alloggiare nell'albergo vero e proprio e consumare nella sala da pranzo. Il proprietario, un ebreo polacco, aveva accettato di farle portare due pasti al giorno nel villino. Le sue due settimane di riposo erano quasi trascorse ed Herman non aveva ancora mantenuto la promessa di passare qualche giorno con lei. Gli era pervenuta, al recapito di Brooklyn, una lettera di Tamara nella quale lei lo rimproverava per non essere stato di parola. Alla fine diceva: «Fingi che io continui a essere morta e vieni a visitare la mia tomba». Prima di partire, Herman tenne conto di tutte le eventualità, diede denaro a Jadwiga, pagò la pigione nel Bronx, comperò un regalo per Tamara, mise inoltre, nella valigia, uno dei manoscritti del rabbino Lampert per lavorarci. Arrivò al capolinea troppo presto e si sedette su una panchina con la valigia ai piedi in attesa che annunciassero la partenza del torpedone diretto a Mountaindale. Non lo avrebbe condotto direttamente dove risiedeva Tamara e sarebbe stato costretto a cambiare a un certo punto lungo il tragitto. Aveva comprato un giornale yiddish, ma lesse soltanto i titoli. Complessivamente le notizie erano sempre le stesse. La Germania veniva ricostruita, tanto gli alleati quanto i sovietici perdonavano i crimini nazisti. Ogni volta che destavano in lui fantasticherie di vendetta, durante le quali scopriva sistemi per distruggere interi eserciti, per rovinare industrie, riusciva a processare tutti coloro che erano stati implicati nell'annientamento degli ebrei, si vergognava di quelle fantasticherie che gli colmavano la mente ad ogni minima provocazione, ma esse insistevano con una pervicacia infantile. Udì annunciare la partenza per Mountaindale e si affrettò verso l'uscita dove i torpedoni aspettavano. Sollevò la valigia sulla reticella dei bagagli e per il momento si sentì a cuor leggero. Quasi non si accorse della partenza degli altri passeggeri saliti sul torpedone. Parlavano lo yiddish e avevano pacchi avvolti in giornali yiddish. L'autobus partì e dopo qualche tempo una brezza che sapeva d'erba, d'alberi e di benzina penetrò attraverso il finestrino in parte abbassato. Per il tragitto fino a Mountaindale, che avrebbe dovuto richiedere 5 ore, occorse quasi un giorno intero. Il torpedone si fermò a un capolinea, dove dovette aspettare una coincidenza. Fuori regnava ancora il clima estivo, ma le giornate si stavano accorciando. Dopo il tramonto spuntò una falce di luna che ben presto scomparve dietro alle nubi. Il cielo divenne buio e letargico. L'autista del secondo torpedone dovette spegnere le luci all'interno perché gli impedivano di vedere bene la strada stretta e tortuosa. Passarono attraverso boschi e a un tratto si materializzò un albergo vividamente illuminato. Sulla veranda uomini e donne stavano giocando a carte. La visione aveva l'insostanzialità di un miraggio mentre si avvicinavano rapidamente. A poco gli altri passeggeri discesero a varie fermate e scomparvero nella notte. Herman rimase solo sul torpedone. Seduto, premeva la faccia contro il cristallo del finestrino e cercava di imprimersi nella mente ogni albero, ogni cespuglio, ogni sasso lungo la strada, come se l'America fosse stata destinata alla stessa distruzione della Polonia ed egli avesse dovuto incidersene nella memoria ogni particolare. Non si sarebbe forse disintegrato, prima o poi, l'intero pianeta? Hermann aveva letto che tutto l'universo si stava espandendo e si trovava in realtà in una fase di esplosione. Dal firmamento calava una malinconia notturna, le stelle baluginavano come candele votive in qualche sinagoga cosmica. Le luci si accendevano mentre andava davanti all'Hotel Palace, dove Hermann doveva scendere. L'albergo era identico a quello che si erano già lasciati indietro: la stessa veranda con sedie, tavolini, uomini e donne identici, la stessa concentrazione nelle carte. Il torpedone aveva per caso viaggiato in circolo? Egli si domandò. Aveva le gambe irrigidite per essere rimasto seduto così a lungo, ma corse su per gli ampi gradini dell'albergo con energia. All'improvviso Tamara apparve. Con una blusa bianca, una gonna scura e scarpe bianche. Sembrava abbronzata e ringiovanita. Si era acconciata i capelli in modo diverso. Corse verso di lui, prese la valigia, lo presentò ad alcune donne sedute intorno a un tavolino da gioco. Una di loro, in costume da bagno, con una giacchetta sulle spalle, sbirciò rapidamente le proprie carte prima di dire: «Ma come può un uomo lasciar sola così a lungo una donna tanto graziosa? I corteggiatori le ronzano attorno come mosche attratte dal miele». «Perché ci hai messo tanto?» domandò Tamara. E quelle parole, l'accento yiddish polacco, le intonazioni familiari, frantumarono tutte le fantasticherie occultistiche di Hermann. Non si trattava di uno spettro dell'altro mondo. Era anche ingrassata un po'. «Hai appetito?» domandò dopo Tamara. «Hanno accettato tutto la cena per te». Lo prese sotto braccio e lo condusse nella sala da pranzo, dove rimaneva accesa una sola lampada. I tavoli erano già apparecchiati per la colazione, qualcuno stava ancora trafficando in cucina e si sentiva uno scroscio d'acqua corrente. Tamara andò in cucina e tornò indietro con un giovanotto che portava su un vassoio la cena di Hermann. Mezzo popone, minestra con tagliatelle, pollo con contorno di carote, composta di frutta e una fetta di torta al miele. Tamara scherzò con il giovane, che le rispose familiarmente. Aveva, notò Hermann, un numero azzurro tatuato sul braccio. Il cameriere se ne andò e Tamara tacque. La giovinezza e persino l'abbronzatura notata da Hermann al suo arrivo parvero dileguare. Si vedevano, sotto gli occhi di lei, ombre e un accenno di borse. «Hai osservato quel ragazzo?» domandò Tamara. «Si trovava sulla soglia dei forni crematori. Un minuto ancora e sarebbe stato un mucchietto di cenere». Tamara giaceva nel suo letto e Hermann riposava sulla brandina che avevano portato nel villino per lui. Ma nessuno di loro riusciva a dormire. Hermann si era appisolato per un momento, però si svegliò con un sussulto. La brandina cigolò sotto di lui. «Non dormi?» domandò Tamara. «Oh, mi addormenterò. Ho certe pillole per dormire, se vuoi te ne do una. Io le prendo, ma rimango completamente sveglia lo stesso. E se anche mi addormento, in realtà non si tratta di un vero sonno, ma di un cadere nel vuoto. Ti prendo una pillola?» «No, Tamara, ne farò senza». «Perché ti agiti e ti rigiri tutta la notte?» «Se giacessi accanto a te, forse mi addormenterei», disse Hermann. «Che senso avrebbe? Tu hai moglie. Io sono un cadavere, Hermann, e non si dorme con un cadavere». «Io che cosa sono?» «Ti credevo fedele, perlomeno a Jadwiga. Ti ho raccontato tutto, l'intera storia». «Sì, me l'hai raccontata. Un tempo, quando qualcuno mi diceva qualcosa, sapevo esattamente di che cosa stava parlando. Adesso sento con chiarezza le parole, ma sembra che non riescano a penetrarmi, rotolano via da me come acqua su tela cerata. Se non sei comodo su quel letto, vieni nel mio». «Sì». Hermann scese dalla brandina al buio, si infilò sotto le coperte e sentì il tepore del corpo di Tamara e inoltre qualcosa che aveva dimenticato durante gli anni di separazione, qualcosa che era nello stesso tempo materno e molto strano. Tamara giaceva supina, immobile. Hermann le rimase al fianco, la faccia voltata verso di lei. Non la toccò, ma notò la pienezza dei seni. Non si mosse, imbarazzato come uno sposo la prima notte di nozze. Gli anni li separavano con la stessa efficacia di un tramezzo. La coperta era tesa, ben rimboccata sotto il materasso, ed Herman avrebbe voluto chiedere a Tamara di allentarla, ma esitava. Tamara disse: «Quanto tempo è passato dall'ultima volta che giacemmo insieme? A me sembrano 100 anni. Sono meno di 10. Davvero? Per me è stata un'eternità. Soltanto Dio può comprimere tante cose in un così breve intervallo di tempo. Mi sembrava che tu non credessi più in Dio. Dopo quello che è accaduto ai bambini, ho smesso di credere. Dove mi trovavo a Yom Kippur nel 1940? Ero in Russia, a Minsk. Cucivo sacchi di tela ruvida in una fabbrica e in qualche modo mi guadagnavo la razione di pane. Abitavo in periferia, insieme ai gentili. Quando venne Yom Kippur decisi che avrei mangiato. Quale motivo c'era di digiunare laggiù? E inoltre, non era prudente lasciar capire ai vicini che si aveva la fede. Però, quando scese la sera e mi accorsi che in qualche posto ebrei stavano recitando Kol Nidre, il cibo non volle andarmi giù. Hai detto che i bambini vengono a te? Herman si pentì immediatamente di queste parole. Tamara non si mosse, ma il letto stesso cominciò a gemere come se fosse stato scandalizzato dalle sue parole. Tamara aspettò che quei suoni raschianti cessassero prima di dire: «Non mi crederai. Farò meglio a non dire niente». «Ti credo. Quelli che dubitano di tutto sono capaci anche di credere a tutto. Anche se volessi non potrei dirtelo. C'è solo un modo per spiegare la cosa: che io sia pazza. Ma persino la follia deve avere un'origine. Quando vengono? Nei sogni? Non lo so. Te l'ho detto, non dormo, ma precipito in un abisso, cado e non arrivo mai in fondo. Poi rimango sospesa. Questo è soltanto un esempio. Mi succedono tante di quelle cose che non riesco né a ricordarle né a riferirle. Giornate passano abbastanza bene, ma le notti sono colme di terrore. Forse dovrei rivolgermi a uno psicanalista, ma come potrebbe giovarmi? Può soltanto attribuire un nome latino a questi fenomeni. Se vado dal medico è per una sola ragione: per farmi prescrivere i sonniferi. I bambini sì, vengono. A volte rimangono con me fino al mattino. E che cosa dicono? Oh, parlano tutta la notte, ma quando mi sveglio non ricordo più niente. Anche se riesco a rammentare qualche parola, ben presto la dimentico. Però una certezza rimane: che esistono in qualche luogo e vogliono mettersi in contatto con me. A volte vado con loro, oppure volo. Non so bene quale delle due cose. Sento anche una musica, ma è un tipo di musica senza suono. Arriviamo a un confine e io non posso attraversarlo. Loro si strappano da me e passano dall'altro lato galleggiando nell'aria. Non riesco a ricordare di che cosa si tratta, se è una collina, un ostacolo. A volte immagino di vedere scale e qualcuno si fa incontro ai bambini, un santo, uno spirito, qualunque cosa possa dire. Herman, non puoi essere precisa, perché non esistono parole per descriverla. Naturalmente, se sono pazza, allora tutto fa parte della mia pazzia. Tu non sei pazza, Tamara. Beh, è piacevole sentirtelo dire. Ma c'è qualcuno che sappia davvero che cos'è la pazzia? Visto che sei qui, perché non vieni un po' più vicino? Ecco così, sì. Per anni ho vissuto con la convinzione che tu non ti trovassi più tra i viventi e ci sono diversi conti da regolare con i morti. Quando ho saputo che vivevi ancora, era troppo tardi per modificare il mio atteggiamento. I bambini non parlano mai di me? Credo di sì, ma non ne sono tanto sicura. Per un momento il silenzio fu assoluto. Persino i grilli tacevano. Poi Herman udì un suono gorgogliante di acqua, come un ruscello che scorresse, oppure si trattava di una tubazione di scarico. Uno stomaco rumoreggiò, ma non era sicuro se si trattasse del suo o di quello di Tamara. Sentì un prurito e lo afferrò l'impulso di gravità, ma si trattenne. Non si poteva dire che stesse proprio pensando, ciò nonostante qualche processo logico era in corso nel suo cervello. A un tratto disse: «Tamara, voglio domandarti una cosa». Ma nel momento stesso in cui pronunciava quelle parole, non sapeva che cosa le avrebbe domandato. «Che cosa?» «Perché sei rimasta sola?» Tamara non rispose. Herman pensò che avesse potuto appisolarsi, ma poi lei parlò, completamente desta, con chiarezza. «Ti ho già detto che non considero l'amore uno spasso». «Che cosa significa?» «Non posso andare a letto con un uomo del quale non sono innamorata. Tutto qui è semplicissimo». «Vuoi forse dire che mi ami ancora?» «Non ho detto questo». «In tutti questi anni non sei mai stata una sola volta con un uomo?» domandò Herman con un tremito nella voce, vergognandosi delle proprie parole e dell'agitazione che facevano nascere in lui. «E se ci fosse stato qualcuno, salteresti giù dal letto e torneresti a New York?» «No, Tamara, non la considererei nemmeno una colpa, puoi essere del tutto franca con me». «E in seguito mi insulteresti?» «No, dato che non sapevi che io fossi invitata, come colpa puoi avere tante altre prese? Anche le vedove più devote riprendono marito». «Sì, hai ragione». «Allora, qual è la tua risposta?» «Perché stai tremando? Non sei cambiato per niente». «Rispondimi! Sì, ho avuto qualcuno!» Tamara si espresse quasi rabbiosamente. Si girò sul fianco, la faccia verso di lui, facendoglisi ancora un po' più vicina. Nell'oscurità, Herman scorse il luccichio dei suoi occhi. Girandosi, Tamara gli toccò il ginocchio. «Quando?» «In Russia. Accade tutto là». «Chi era?» «Un uomo, non una donna». C'era ilarità repressa nella risposta di Tamara, frammista a risentimento. La gola di Herman si strinse. «Uno solo o parecchi?» Tamara sospirò spazientita. «Non è necessario che tu sappia ogni particolare. Visto che mi hai detto questo, potresti anche dirmi tutto». «Beh, parecchi». «Quanti?» «No, davvero, Herman, questo non è necessario». «Dimmi quanti!» Di nuovo il silenzio. Tamara sembrava contare tra sé e sé. Herman si sentì pervadere di sofferenza e di lussuria, e lo stupirono i capricci del corpo. Una parte di lui si agitava per qualcosa che era irrevocabilmente perduto. Quel tradimento, per quanto insignificante in confronto all'iniquità del mondo, costituiva una macchia incancellabile. Un'altra parte di lui anelava a tuffarsi in esso, a sguazzare nella degradazione. Udì Tamara dire: «Tre». «Tre uomini?» «Non sapevo che tu fossi in vita, eri stato crudele con me, mi avevi fatto soffrire per tutti quegli anni, sapevo che, qualora avessi vissuto, ti saresti comportato nello stesso modo, e infatti sposasti la serva di tua madre». «Lo sai perché?» «Ci sono perché, anche nel mio caso». «Beh, sei una sgualdrina!» Tamara si lasciò sfuggire un suono che somigliava a una risata. «Non te l'avevo detto?» E gli tese le braccia.